Dato che stava parlando di quella visita a Madame de Villeparisis, pensai di informarmi presso il signor di Charlieu circa la sua esatta parentela con la marchesa e la nascita di lei, ma la domanda si formò sulle mie labbra diversamente da come avrei voluto. Gli chiesi notizie della famiglia Villeparisis. Mio Dio! La risposta non è davvero facile, mi rispose Charlieu con una voce che sembrava patinare sulle parole. È come se mi chiedeste di parlarvi del nulla. Mia zia, che può permettersi tutto, si è tolta al capriccio, risposandosi con un minuscolo signor Tyrion, di cancellare il più gran nome di Francia. Questo Tyrion ha pensato di non correre alcun rischio accaparrandosi, come si fa nei romanzi, il nome di una famiglia aristocratica estinta. Gli storici non riferiscono se sia stato tentato dalla Tour d'Auvergne, se abbia esitato fra Toulouse e Montmercy. Comunque scelse altrimenti e diventò signor de Villeparisis. Poiché non esistono più dal 1702, pensai che avesse voluto modestamente significare, con questo, d'essere un signore di Villeparisis, piccola località nei pressi di Parigi, di possedere a Villeparisis uno studio d'avvocato o un negozio di parrucchiere. Ma mia zia, da questo orecchio, non ci sentiva. D'altronde ha ormai raggiunto l'età in cui non ci si sente né dall'uno né dall'altro. Si mise a sostenere che il marchesato di Villeparisis apparteneva alla famiglia. Ci ha scritto a tutti, ha voluto fare le cose in piena regola, non so dirvi il perché. Se si decide di prendere un nome al quale non si ha diritto, il meglio è non fare tante storie, come la nostra ottima amica, la presunta contessa di M, la quale, disattendendo i consigli di Madame Alphonse Rothschild, si è rifiutata di impinguare l'obolo di San Pietro per un titolo che non per questo sarebbe diventato più autentico. La cosa più comica è che, da quel momento in poi, mia zia ha monopolizzato tutti i dipinti che avessero qualche rapporto con i veri Villeparisis, con i quali il defunto Tyrion non aveva la minima parentela. Il castello di mia zia è diventato una specie di centro d'ammasso dei loro ritratti, autentici o no, sotto la cui marea montante certi Guermantes e certi Condé, che non sono poi roba da buttare via, hanno finito con lo scomparire. I mercanti d'arte gliene fabbricano di nuovi ogni anno. Ha persino appeso, nella sua sala da pranzo in campagna, un ritratto di Saint-Simon per via del primo matrimonio di sua nipote con il signor di Villeparisis. E, sebbene l'autore dei Memoir vanti forse altri diritti all'interesse del visitatore che non quello di non essere stato il bisnonno del signor Tyrion. Il fatto che Madame de Villeparisis fosse soltanto Madame Tyrion accelerò nella mia mente il declino della sua figura, iniziato dal momento in cui mi ero reso conto della composizione alquanto mista del suo salotto. Trovavo ingiusto che una donna, il cui titolo, il cui stesso nome erano affatto recenti o quasi, potesse illudere i contemporanei e dovesse illudere i posteri grazie a qualche amicizia regale. Poiché tornava ad essere quel che m'era parsa quando ero bambino, cioè una persona che non aveva niente d'aristocratico, le grandi parentele che la circondavano mi sembrava le restassero estranee. La marchesa non smise, in seguito, di essere squisita con noi. A volte andavo a trovarla e lei, di tanto in tanto, mi mandava un ricordo. Ma non riuscivo a concepire che appartenesse al Faubourg Saint-Germain e se avessi dovuto raccogliere qualche informazione su quell'ambiente, lei sarebbe stata l'ultima fonte alla quale sarei ricorso. «Oggi», riprese il barone, «andando in società non fareste che nuocere alla vostra posizione, deformare la vostra intelligenza e il vostro carattere. D'altronde, bisognerà sorvegliare anche e soprattutto le vostre amicizie. Prendetevi pure delle amanti se la vostra famiglia non ci trova da ridire. La cosa non mi riguarda. Anzi, posso solo incoraggiarvi. Già, Posso solo incoraggiarlo, questo piccolo sporcaccione che presto dovrà farsi la barba, aggiunse Charlieu toccandomi il mento. Ma la scelta degli amici maschi ha ben altra importanza. Su 10 giovani, 8 sono dei mascalzoncelli, delle piccole carogne capaci di procurarvi un danno che non riuscirete mai a riparare. Mio nipote Saint-Lieu è a rigore un buon amico per voi. Rispetto al vostro futuro non vi sarà di nessuna utilità. Ma quello basto io. E tutto sommato, per uscire assieme a voi nei momenti in cui ne avrete abbastanza di me, mi sembra che non presenti seri inconvenienti per quanto ne so. Lui almeno è un uomo, non è uno di quegli effeminati come se ne incontrano tanti al giorno d'oggi, piccoli malavitosi capacissimi di portare al patibolo un giorno o l'altro le loro vittime innocenti. Non mi era noto il senso di quell'espressione d'argot, malavitoso. Chiunque l'avesse conosciuto, però, sarebbe rimasto non meno sorpreso di me. La gente dell'alta società ama ricorrere all'argot e coloro cui si può rinfacciare una certa cosa ostentano la propria disinvoltura nel parlarne. Ai loro occhi è una prova d'innocenza, ma perduto il senso della misura, non si rendono più conto del limite al di là del quale uno scherzo diventa troppo speciale, troppo scabroso, rappresenta una prova di corruzione più che di innocenza. Lui non è come gli altri, è molto gentile, molto serio. Non potei trattenermi dal sorridere all'epiteto serio, che nell'intonazione di Charlieu sembrava suonare come virtuoso o per bene, nel senso in cui si dice che è seria una giovane operaia. In quel momento passò un fiacre che sbandava da un lato all'altro della strada. Un giovane cocchiere, abbandonato il suo posto a cassetta, lo guidava dal fondo della vettura dove era seduto, mezzo spronzo, sui cuscini. Il signor di Charlieu si affrettò a fermarlo. Il cocchiere parlamentò brevemente. Da che parte andate? Dalla vostra. La cosa mi sbalordì, visto che Charlieu aveva già rifiutato parecchi fiacre con le lanterne dello stesso colore. Ma non ho voglia di risalire a cassetta. Vi dispiace se resto nella vettura? No, basta che abbassiate la capote. Insomma, pensate alla mia proposta, mi disse Charlieu prima di salutarmi. Vi lascio qualche giorno per rifletterci. Scrivetemi. Ve lo ripeto, bisognerà che io vi veda ogni giorno e che abbia da voi quelle garanzie di lealtà, discrezione, che d'altronde, devo dirlo, avete l'aria di poter offrire. Ma nel corso della mia vita sono stato così spesso ingannato dalle apparenze che ho deciso di non fidarmene più. Perbacco, il meno che io possa fare prima di abbandonare un tesoro è accertarmi in che mani lo lascio. Insomma, ricordate bene. Quel che vi offro, vi trovate, come Ercole di cui per vostra sfortuna non mi pare che possediate la forte muscolatura, al bivio dove la strada si biforca. Fate in modo di non dovervi pentire tutta la vita per non aver scelto la via che conduceva alla virtù. Ma come? Aggiunse rivolto al cocchiere. Non avete ancora abbassato la capote? Toccherà a me piegare le molle, e già che ci sono, visto in che stato siete ridotto, mi occuperò anche della guida. E saltò a fianco del cocchiere, in fondo al fiacre che ripartì al gran trotto. Da parte mia, appena tornato a casa, vi ritrovai l'esatto equivalente della conversazione svoltasi poco prima fra Bloch e il signor di Norpois, ma in una forma condensata, invertita e crudele. Una disputa fra il nostro maggiordomo, dreyfusista, e quello dei Guermantes, antidreyfusista. Le verità e controverità dibattute ad alto livello fra gli intellettuali militanti nelle due leghe della Patrie Française e des droits de l'homme si propagavano infatti sin nelle viscere del popolo. Reinach strumentalizzava i sentimenti di gente che non l'aveva mai visto, mentre per lui l'affare Dreyfus si riduceva a un teorema irrefutabile che sollecitava la sua intelligenza e che, in effetti, egli dimostrò con il più sbalorditivo successo di politica razionale, successo contro la Francia, secondo alcuni, cui si sia mai assistito. Nel giro di 2 anni sostituì un ministero Billot con un ministero Clemenceau, capovolse l'opinione pubblica, tirò fuori di prigione Picard per sistemarlo, ingrato, al ministero della guerra. Forse questo razionalista manovratore di folle era a sua volta manovrato dalla propria ascendenza. Se i sistemi filosofici, che hanno un maggior contenuto di verità, sono dettati ai loro autori, in ultima analisi, da un motivo d'ordine sentimentale, come escludere che, in una vicenda puramente politica quale l'affare Dreyfus, motivi analoghi possano, all'insaputa dello stesso ragionatore, dominare la sua ragione? Bloch era convinto di aver scelto razionalmente il proprio dreyfusismo, eppure sapeva che il suo naso, la sua pelle e i suoi capelli gli erano stati imposti dalla sua razza. La ragione è sicuramente più libera, tuttavia obbedisce anch'essa a certe leggi che non si è data da sé. Il caso dei due maggiordomi, quello dei Guermantes e il nostro, era sintomatico. Le onde create dalle correnti dreyfusista e antidreyfusista, che dividevano verticalmente la Francia, erano abbastanza silenziose, ma i rari echi che ne scaturivano erano sinceri. Sentendo qualcuno, nel corso di una conversazione volutamente estranea all'affare Dreyfus, insinuare una notizia politica per lo più falsa, ma sempre sperata, era possibile dedurre dall'oggetto delle sue predizioni l'orientamento dei suoi desideri. Si affrontavano così, su determinati punti, da una parte un timido apostolato, dall'altra una sacra indignazione. I due maggiordomi, la cui disputa sorpresi rincasando, facevano eccezione alla regola. Il nostro lasciò intendere che Dreyfus era colpevole, quello dei Guermantes che era innocente. Non lo facevano per dissimulare le rispettive convinzioni, ma per cinismo e durezza nel gioco. Il nostro maggiordomo, non sapendo se si sarebbe fatta o no la revisione, voleva sottrarre in anticipo al maggiordomo dei Guermantes, in caso di insuccesso, la gioia di credere sconfitta una causa giusta. Il maggiordomo dei Guermantes pensava che, qualora l'istanza di revisione fosse stata respinta, il nostro si sarebbe ancor più macerato vedendo che nell'isola del diavolo continuava a essere relegato un innocente. Il portinaio stava a guardare. Mi diede l'impressione di non essere lui a seminare zizzania fra la servitù dei Guermantes.